ora in onda Rock Revolution. In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, cari amici, ultimo giorno del mese di maggio, insomma siamo alle porte praticamente dell'estate, alle porte della percezione. Qualcuno diceva qualche tempo fa, in qualche film famoso, Tra l'altro recentemente ho visto su Facebook parlare del ritorno di Jim Morrison. A quanto pare qualcuno lo ha visto camminare per le strade di Los Angeles. Ma vi immaginate Jim Morrison che passeggio per... Bah. Vabbè, allora benvenuti ovviamente su CRMP Radio, questo è Rock Revolution, ogni venerdì sera dalle 21 alle 23. Quest'oggi parleremo di musica emergente come nostra abitudine, di rock and roll ovviamente, di grandi successi, di evergreen, ma anche di novità musicali. Avremo dei diversi appuntamenti all'interno di questo programma, come ad esempio Rock Revolution Net, ci metteremo in collegamento con Imperia questa settimana per conoscere una band molto molto tosta, sono in Maneras. Poi avremo ovviamente il Rock for You, i 4 successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata. Questa settimana Whitesnake, The Darkness, Steve Miller Band e Status Quo. Poi ancora, e mica è finita, insomma siamo soltanto all'inizio, Rock Revolution Live, vivi l'emozione di assistere al più bel concerto della tua vita. Ci trasferiamo tutti virtualmente in un grandissimo stadio per assistere a due esibizioni dal vivo, la prima degli Aerosmith con Angel e la seconda degli AC/DC con Heat Seeker, grandissima canzone del 77, annata favolosa. Poi Rock Revolution Unplugged, scritto con la A, no sto scherzando, due canzoni in versione acustica questa settimana. Una canzone dei Nirvana, Jesus Don't Want Me For a Sunbeam, fantastica, e Marilyn Manson, Into the Fire, una versione alternativa della canzone originale, una bonus track dell'ultimo album del cattivone Marilyn Manson. Poi ancora spazio alla musica italiana, ovviamente con Italians Do Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata questa settimana, una canzone delle Vibrazioni e poi Il Pan del Diavolo, nostri conterranei. E poi ancora I Love Rock and Roll, spazio ai grandi classici, ovviamente gli evergreen della musica rock and roll, i due brani in sequenza, le due accoppiate questa settimana, sono canzoni abbastanza recenti, direi proprio nuove ma abbastanza recenti. Insomma, questo è quanto altro questa sera Rock Revolution. Do il benvenuto a Simone. Buonasera Simone. Buonasera, ciao Filippo, ciao a tutti gli amici. Non si capisce se dobbiamo metterci maniche corte oppure col maglioncino. Siamo tutti e due con la felpa e siamo quasi a giugno. Ormai si va ad ore alternate, la mattina in un modo, pomeriggio nell'altro. Veramente, veramente. Insomma, il meteo e le condizioni meteorologiche prevedono per i prossimi giorni anche un calo delle temperature. Saranno contenti i gestori dei lidi di Cefalù e dei dintorni, insomma, che non possono far accomodare i loro clienti a prendere il sole, che effettivamente ci vuole la felpa per prendere il sole, che c'è freschino. Comunque, insomma, a me non dispiace, nettamente. A te, Simone? Ma nemmeno a me, ce lo godiamo ancora un po' il fresco, infatti, c'è tempo per il caldo. Infatti, un po' di freschetto, bello col maglione, col giubbotto di pelle, insomma, atmosfere autunnali, vabbè. Allora, iniziamo questa puntata di Rock Revolution. Ovviamente siete invitati a partecipare a questa puntata, vi spiegherò fra pochissimo come, con le varie community, il nostro sito internet. Ovviamente siamo anche in streaming su crmpradio.it, oltre che in radio, ma anche sul nostro sito rockrevolution.it. Iniziamo questa settimana con i Duncan Jones, Just a Beautiful Day. This is Rock Revolution. Thank you. già passato un anno. Panico. Sembrava finita la canzone. Io veramente vorrei dire un messaggio a tutti gli artisti e le band che fanno le pause nelle canzoni. Cioè, la volete finire? Ogni volta uno pensa che è finita la canzone, invece poi continua di nuovo. Ci troviamo in grosse difficoltà noi speaker, noi DJ, veramente. Allora, mi sono dimenticato, in realtà non mi sono dimenticato, solo che siccome avevo parlato già tanto, pensavo di rompervi le scatole ancora e non l'ho fatto. Però volevo salutare ovviamente la nostra redazione Ida Parlavecchio, anche lei pronta e attiva su tutte le varie community, Facebook, Twitter, Google Plus e quant'altro per interagire con voi. Chiaramente siete benvenuti se volete fare delle richieste, delle segnalazioni, come qualcuno dice, se volete mandare dei messaggi, se volete festeggiare il compleanno di qualcuno, venite, portate la torta e noi vi festeggiamo. Insomma, fate quello che vi pare. Adesso arriva un'altra canzone molto tosta, devo dire la verità, a me piace parecchio. Poi si avvicina anche molto a quelle che sono le atmosfere estive del 2013, che si prospettano veramente molto movimentate in quel di Cefalù. E noi siamo molto contenti di questo, c'è un bel po' di cose da fare. Quindi, signore e signori, venite numerosi, se state un'estate molto tosta a Cefalù, ci sarà da divertirsi. Loro sono in Sahara Hot Nights e questa è la famosa All Right, All Right. Alza le tue mani al cielo e venera il tuo rock. On Air, Rock Revolution. We'll be right back. Messages. Scegli una canzone, scrivi un messaggio. Rock Revolution, la dedica per te. Revolution. Leave us alone. Rock Revolution in diretta su CRMP Radio. Questi erano i due brani in sequenza. Abbiamo ascoltato i Get Up Kids con Close to Me. Loro sono un gruppo statunitense formatosi a Kansas City nel 1995. Curiosità: il nome del gruppo deriva dal testo della canzone The Cure, Suburban Get Up Kids. Tuttavia il leader del gruppo, Matt Pryor, riteneva scadente un nome che cominciasse per S e quindi decise di sostituire la parola suburban con un articolo per appunto The, quindi The Get Up Kids. Seconda canzone che abbiamo ascoltato erano The Harrisons con Mander's Arms. Loro sono stati soltanto negli ultimi anni rappresentati da una folta schiera di gruppi quali Milburn, Little Man Tate, Brodham Jackets, e sono stati accostati insomma a un genere musicale che è fra l'indie e il punk britannico degli anni, insomma, dei primi Clash e dei Jam, per intenderci. Vabbè, adesso arriva un'altra bella canzone, o forse c'è un collegamento? No, fra pochissimo ci metteremo in collegamento con Francesco Quartararo, nostro giornalista corrispondente da Palermo, per conoscere quali sono gli eventi più interessanti della settimana. Fever Drive, Just What I Need. I don't mind you coming here, wasting all my time, 'cause when you're standing out so near, I kinda lose my mind. It's not the perfume that you wear, it's not the ribbons in your hair. I don't mind you coming here and wasting all my time. Doesn't matter where you've been, as long as it was deep, deep, yeah. You always knew to wear it well, You look so fancy, I can tell, I don't mind you hanging out and talking in your sleep. I guess you're just what I need. Drive, Just What I Needed. 21 e 29 su CRMP Radio in diretta Rock Revolution. Anche questo venerdì vi teniamo compagnia fino alle 23, in attesa insomma di trasferirci poi tutti quanti un po' in spiaggia al mare per vivere assieme a voi quello che è Rock Revolution on the Beach, che tra l'altro è un evento parallelo a quello della nostra emittente CRM on the Beach, perché anche quest'anno CRMP Radio sarà protagonista nei vari lidi più frequentati, più in voga della costa Palermo-Messina, con l'appuntamento per ogni weekend, il sabato e la domenica, in diretta da vari lidi, con giochi, animazione, gadget per tutti. Quindi ci divertiremo il pomeriggio in spiaggia e poi la sera con Rock Revolution il venerdì on the beach. per gustare, insomma, del rock and roll in spiaggia, che penso sia la cosa più bella per tutti, sia per noi che facciamo musica, sia per voi che l'ascoltate, modestamente. Quindi siamo ansiosi, insomma, di trasferirci al mare. Nel frattempo, comunque, continuiamo dalla nostra bella casetta, dal nostro studio, a farvi sentire il rock e la musica emergente. Fra poco intervistiamo una band da Imperia. Nel frattempo, Chevelle con Face to the Floor. Scegli una canzone, scrivi un messaggio, Rock Revolution la dedica per te. Voi in posizione di rock and roll. Il grande rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. CRM Happy Radio. Let's go! Bella sta canzone. Stasera siamo leggermente filone punk, che tra l'altro recentemente ho letto sia senza soldi praticamente. Vabbè, allora vediamo se siamo pronti per l'intervista di questa settimana. Siccome anticipato, ci metteremo in collegamento con quelli Imperia. Allora vai con l'intervista. Rock Revolution connected with. Bene, bene, come anticipato, quindi Città di Imperia, siamo al telefono con i Maneras. Pronto? Imperia. Buonasera ragazzi. Ciao. Oh, vi sentiamo a tratti, forse un problema di buffering. Vediamo se riusciamo a risolvere questo piccolo problema tecnico per conoscere meglio questa band. Nel frattempo do a tutti i miei amici ascoltatori i vari indirizzi per poter conoscere più approfonditamente i Maneras, quindi il sito internet manerasband.wix.com/maneras, poi anche su Facebook ovviamente www.facebook.com/pages/maneras, comunque semplicemente su Google cercate e ovviamente arriverete al risultato ricercato. Componenti della band: Francesco Straforello voce chitarra, Giuseppe Manera batteria, Paolo Cambiaso chitarra solista, Marco Fiscella al basso. Detto tutto bene? Perfetto. Bene, tra l'altro stiamo vedendo anche nella nostra web TV ragazzi in videoconferenza Skype, quindi non so adesso l'ordine come siete organizzati, Francesco, Giuseppe, Paolo e Marco, oppure l'ordine è inverso? Totalmente inverso. L'importante è che ci siete tutti. Allora, cominciamo. Bene, cominciamo con una domanda scontata ma fondamentale. Chi sono i Maneras e quando nascono? Allora, la band è nata nel 2006. Sì. Nel cover band punk e niente, è andata fino a oggi. Ragazzi, c'è qualche problema tecnico perché vi sentiamo malino con degli intervalli. Ecco, adesso ci mettiamo in contatto telefonico con voi, così ripristiniamo il collegamento e parliamo ovviamente di questa band. Purtroppo, insomma, ancora mannaggia la miseria, in Sicilia non c'è la fibra ottica. Come dobbiamo fare? È incredibile, veramente. Poi vogliono fare il ponte sullo stretto, mannaggia loro. Va bene, allora stiamo cercando di metterci nuovamente, come anticipato, in collegamento con i Maneras della città di Imperia per conoscere questo progetto musicale. Ascolteremo anche una bella canzone che ci hanno mandato i ragazzi, molto molto tosta. Quindi vediamo se ci siamo. Pronto? Pronto? Ehi là! Eccoci, ecco, adesso ci sentiamo bene. Vecchio, come dice, chi lascia il vecchio per il nuovo? Quando... Allora, con chi sono al telefono? Con... Siamo tutti qua. Siete tu? Perfetto. Ci sono un po' basso di vero, però. Perfetto, va bene, adesso stiamo ottimizzando al meglio la situazione. Dunque, non so se avete sentito la domanda che vi ho fatto prima, domanda riguardante la nascita della vostra band. Quindi, sì, allora, noi siamo nati nel 2006 come cover band, punk rock più che altro, facevamo cover punk. Sapevamo suonare poco in realtà, esatto. E niente, siamo andati avanti fino a oggi e adesso stiamo provando appunto a proporre pezzi nostri, un repertorio nostro, e dovremmo far uscire questo EP entro agosto, il singolo With the Music è già uscito, c'è questo video e niente, su, vediamo cosa succede. Esatto, il genere è mutato nel tempo. Esatto, il genere è mutato nel tempo. Ecco, parlate di genere, nella vostra biografia leggiamo come diciamo genere di appartenenza alternative new wave comfortably acid, cioè mazza quante cose ragazzi. Esatto, perché sì, non volevamo rappresentarci in un genere particolare, di conseguenza siamo un'evoluzione del new wave con dei cenni comunque confortabilmente. Esatto, il suono della chitarra praticamente ci piace un po' acido ma confortevole. Ah, esatto. Ma quindi, bella questa definizione, il suono della chitarra confortevole. Ma per la serie acido. Per la serie dal vivo suonate sugli sgabelli. No, sul divano in realtà, che è quello che vuole dire. Infatti sul video si vedono sia della bella poltrona. Adesso parleremo anche del video della canzone che andremo ad ascoltare. Un'altra cosa, voi nascete, se non vado errato, come cover band, cioè avete proposto già nel 2006 svariate cover. Qual era la band più proposta dal vivo, insomma? Beh, allora, direi che come inizi Clash, Social Distortion e Steve Littlefinger sono state le band che più abbiamo masticato. Esatto. A livello di live, sicuramente tante di quei pezzi lì, di quelle band lì su, che comunque per noi sono molto molto importanti. Certo, punk, certo. Rock, quello delle origini. Bene, bene, importante. Sentite, parliamo adesso del presente. Dunque, siete qui per promuovere la vostra musica del vostro ultimo lavoro, Whips and Irises. Il videoclip è pubblicato il 22 maggio, quindi qualche giorno fa. Dove avete registrato, in quanto tempo, e se ci volete parlare di questa esperienza che penso sia unica ed importante per una band, soddisfacente? Molto. Allora, la canzone l'ha scritta Francesco e niente, l'abbiamo messa su in circa di un'estate più o meno. È stata prodotta da Good Vibes Produzioni, che è un'etichetta locale. E niente, poi è venuta l'idea di fare il video, che è stato prodotto da Rubber Mind, anche lì una produzione locale. E comunque, esatto, tutte produzioni indipendenti, e comunque il risultato è già soddisfatto molto. Siamo molto soddisfatti di quello che è venuto. Esatto. Non vediamo l'ora di farne altre. Esatto, non vediamo l'ora di fare altre cose. Bello, è bella questa cosa qui, no? Quando si ha voglia di produrre, di proporre, diventare una macchina di produzione, di musica, penso sia sempre molto bello. Soprattutto poi quando ci sono dei riscontri anche in termini di ascolti, di pubblico e di gradimento, esatto. No? Sicuramente. Dunque, il singolo è tratto dall'EP dal titolo, parliamo di Whips and Irises, It Takes a While, la cui uscita è prevista per agosto del 2013. Agosto. Qualche anticipazione su questo EP? Quanti brani, temi, testi? Allora, sono sei brani e comunque il genere è più o meno quello, un new wave alternativa con con un'impronta un po' post-punk, post-hardcore, su... Poi Whips è il pezzo forse più melodico delle P, gli altri hanno un attimo un pochino più di tiro, su, quella è un po' più pettinata rispetto alle altre, esatto. Diciamo, su. Sì. È stato un pochino più pettinato. Sentite, ma voi, ad esempio, no, io prendo come riferimento, quando si parla di post-punk, i Duran Duran, no? Che molti dicono, vabbè, sono tipo i Tech Death dell'epoca, degli anni Ottanta. In realtà loro sono un gruppo definito come post-punk. Beh, io se ti posso dire la verità, come post-punk intendo più i Gang of Four, tutta quella, insomma, band così, anche i Joy Division, qualcosina, su, i primi, più quella roba così. Poi vabbè, Duran Duran mi sembra più New Wave, anni 80, certo. Proprio schietta, tastieroni e capelli cotonati. E voi come siete messi a tastieroni e capelli cotonati? I capelli cotonati fortunatamente non ne abbiamo, tastieroni nemmeno, però per ora ogni tanto ci si pensa, ma per ora diciamo che stiamo bene così. Basta, poi per il futuro il chitarrista Paolo ha 2400 effetti, quindi più o meno ce la gestiamo. Complimenti. Con la sua astronave. Sentite, com'è la scena musicale in quell'imperia e zone limitrofe? Ci sono abbastanza spazi per gli artisti emergenti? Si può suonare facilmente? Com'è la situazione? Beh, diciamo che le band emergenti non mancano, sono gli spazi che sono un attimo risicati. Sì, esatto, band interessanti ce ne sono qua nella zona, parecchi, sì. Purtroppo anche i locali, sì, ci sono, sì, qualcosa c'è, ma diciamo che non siamo proprio nel centro del ciclone, esatto. Però cerchiamo di fare il possibile, esatto. Bene, bene, volevo farvi due domande. Allora, la prima, di fronte alla quantità, l'avete detto anche voi, ci sono talmente tantissime band emergenti, artisti emergenti in giro su internet che fanno conoscere la loro musica, che propongono la loro musica. Cosa portano di nuovo i Maneras nella scena musicale italiana? Perché ascoltarvi? Questo è un domandone. Beh, ragazzi, portiamo la nostra musica, è comunque un genere che obiettivamente cerchiamo di far nostro e di rendere unico. Nel senso, abbiamo. Certo, poi, vabbè. Portiamo i nostri suoni e noi stessi, insomma. Bene, sogno nel cassetto. Come? Sogno nel cassetto. Sogno nel cassetto, suonare un bel po' in giro. Ma la Brixton Academy. Siete mai stati in Sicilia? No, purtroppo no, mi piacerebbe tantissimo. Beh, in realtà Marco qua ha origini siciliane, lui va spesso. Come no. Ah, bene, bene. Allora, ormai sono 10 anni che manco, ma tornerò. Tornerò. Dovete organizzare un bel tour anche in Sicilia, d'estate, magari così. Ma volete, però vogliamo le cassate. Vabbè, quello è per forza, per forza. Cassate e arancine. Va bene, ragazzi. Allora, questa sera ascolteremo una vostra canzone dal titolo Whips and Uses. Vi ringraziamo per essere stati a Rock Revolution. Vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Continuate così, che andate molto, molto forte. Grazie a voi per lo spazio, ciao. Grazie, a presto. Che bello, ragazzi, conoscere la musica nuova, la musica emergente. Quanti artisti bravi abbiamo in Italia, quante band toste, e poi andiamo ad ascoltare la musica internazionale. Ma perché, perché? Da Imperia, loro sono i Manelas. Tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. Sunshine of Your Love in diretta su CRMP Radio, anche questo venerdì sera, Rock Revolution. Fra un pochino parleremo delle notizie più curiose dal mondo del web. Parleremo di martelli pneumatici. Oddio mio, non ci voglio pensare con Pablo questa sera. Quindi mi raccomando, rimanete con noi. Adesso invece andiamo ad ascoltare i 4 successi rock più belli di tutti i tempi in sequenza mixata con il Rock for You. Rock for You, 4 successi rock in sequenza senza interruzioni. I'm gonna take it to the limit.

sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. Keep talking about me, baby. Say I'm doing you wrong. Well, don't worry, no, don't worry, mama. 'Cause I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Rock for you, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Revolution. Rock Revolution presenta Italians Do Rock Better, due successi rock mixati targati Italia. Lady

fare tutto. Ma tutto non si può fare. Rock Better, due successi rock italiani in sequenza mixata. Abbiamo ascoltato Le Vibrazioni con Vieni da me e poi Il Pan del Diavolo con la canzone Pertanto. Tra l'altro loro sono stati ospiti di Rock Revolution qualche annetto fa. Le Vibrazioni con questa canzone del 2003, tratta dall'album dove poi si trovava anche Dedicato a te, canzone che ha avuto un grandissimo successo. Uno tra le canzoni più vendute del 2003 in Italia, dove è rimasta per ben due settimane in vetta alla classifica. È una band che comunque ha fatto tanta gavetta nei locali milanesi, quindi non è una di quelle band insomma che sono venute fuori da qualche talent e si sono fatti la loro strada. Quindi ben vengono le Vibrazioni e Il Pan del Diavolo, anche loro insomma si sono fatti il culo, dobbiamo dire la verità, e quindi li abbiamo ascoltati all'interno di Italia's Do Rock Band. Bene, adesso è giunto il momento di parlare delle notizie più curiose dal mondo di internet, dal mondo del web, con il nostro amico Paolo per la rubrica Rock Revolution News of the Week. Rock Revolution News of the Week. Oh, buonasera Paolo. Ciao ragazzi. Come è andata? Tutto bene? Ma sì, tutto bene. Diciamo che sono stato... allontanato dal mio istruttore che è sparito, non si sa dove è andato. Beh, infatti si è questa andato. Sera non c'è Francis, non è dei nostri. Non abbiamo notizie. Non abbiamo notizie, si sarà perso nell'etere. Nell'etere, nella sostanza, dico proprio. Sì. Allora, questa sera, come al solito, vi portiamo a conoscenza di quelle che sono le notizie più strane, più curiose dal mondo di internet. La gente fa davvero tante cose particolari e strane. Sì. C'è da dire che ovviamente siamo ai limiti della fascia protetta, quindi comunque invitiamo, se ci sono dei minorenni, dei bambini, ad allontanarsi gentilmente dalla vostra sezione, lo dico. A chiudergli le orecchie. Esatto, perché magari potrebbero esserci dei contenuti un po' piccanti, ecco, diciamolo sì. Così. Diciamo mi sono... Ho lavorato io per cercare queste notizie e quindi sono prettamente sexy. Ah, beh, tanto per cambiare. Allora, di cosa parliamo? Oggi diamo dei consigli alla gente. Bene. Ragazzi, state attenti, non fate l'amore col martello pneumatico. No! Vi avevo anticipato qualcosa, però è una notizia vera, da fonti abbastanza reali. In Oklahoma è successo ciò. Una donna di 49 anni è morta nel tentativo di soddisfare i propri desideri sessuali dopo aver tentato di masturbarsi con un martello pneumatico. Allora, una volta in un film di questi comici ho visto che c'è una specie di vibratore a motore, ma quello non era la punta in metallo. Era preistoria in confronto. Sì, pare che un vicino abbia chiamato la polizia dopo averla vista mentre cercava di dirigere l'insolito strumento di piacere verso le sue parti basse. Ecco, vabbè, abbiamo capito. Le autorità sono arrivate in tempo per trovarla semi-incosciente, portarla all'ospedale ed essere informati poco dopo dell'avvenuto decesso. No, ma non ci voglio pensare, guarda, veramente una scena. Sì, guarda. La donna che aveva appena divorziato dal marito, e quindi meschina era un poco addolorata, certo. Era nota a tutto il vicinato per i suoi forti gemiti e per aver messo su un piccolo giro di prostituzione. Hai capito? E installato un distributore di giocattoli erotici vicino a casa. Di martelli pneumatici. Una professione e una passione stroncate da un eccesso di entusiasmo. Eh beh, certo, insomma, ti credo. Un martello pneumatico, c'è da chiedersi come faceva ad azionarlo, perché non è che martello pneumatico, poi dipende che tipo di martello pneumatico. Penso quello per aprire le credo, buche, lo metti a testa sotto e ti ci siedi sopra. Mamma mia, veramente. Non ci voglio pensare. Vabbè, cambiamo pagina, mettiamo pagina. Sì, completamente pagina. Parliamo di una cosa un po' più... Amanti focosi restano attaccati. Oh, come i cani, guarda. Che bello. Ciò avviene a Bergamo. Ah, in Italia, bene. Esatto. Una cassiera cassiera lei e guardia giurata lui. Entrambi sposati, con parole da tempo erano amanti. Cioè sposati con parole ma erano amanti da tempo. Sì. Ma la loro ultima performance erotica nella toilette del centro commerciale del Bergamasco, dove entrambi lavoravano, è diventata un incubo per entrambi. Qualcosa infatti è andata storto e i due sono rimasti attaccati e hanno dovuto chiedere aiuto al 118. No, incredibile. Ma in che senso attaccati? Cioè, cioè come, come i cani, voglio dire, quando si accoppiano i cani. Ma credo sia una posizione particolare che li ha fatti incastrare. Ho capito, bah, misteri veramente. Sì, sì. Comunque il problema è stato qualcosa infatti è andato storto e i due sono rimasti attaccati e hanno dovuto chiedere aiuto a 118. E hanno buttato un secchio d'acqua di sopra per farli smollare. Ancora avvinghiati, hanno trasportato i due amanti all'ospedale. Intorno all'ambulanza si è radunata una folla di curiosi, tra cui anche il marito della cassiera. Aia. E quando si è accorto che sotto il telo c'era la moglie incollata a quell'altro, è svenuto ed è stato soccorso lui dal 118. Mamma mia, veramente un telefilm, cioè sembra. Uomini, donne, mi raccomando, se pensate insomma di fare una scappatella, abbiate l'attenzione di non rimanere attaccati. Guarda come gli finisce male a quest'altro poveretto. Dove, allora, dove siamo in questo momento? In Italia? Verona, Verona. Verona, sì, sempre sì, in Italia, sì, sì, bene. Picchia il marito e lo, lo spazza in cantina. Come lo spazza? Lo butta in panchina. In panchina. In cantina. No, come no? In cantina. In cantina. In cantina. In panchina. Praticamente cosa faceva codesta? Picchiava il marito, lo chiudeva in cantina lasciandolo anche senza mangiare. Hai e capito. Riceveva gli amanti a casa comodamente. Ah, bella, hai capito? Sì, ciò avveniva, avveniva a Bussolengo, nel veronese. Una donna ha fatto passare 5 anni d'inferno al marito. Dopo l'ennesima aggressione con un manico di coltello, l'uomo si è deciso a denunciarla e ora infatti è indagata in attesa di una perizia psichiatrica. Mamma mia. Era arrivata a imporre al marito, al quale era precluso il conto corrente, anche pure la presenza di altri uomini suoi, suoi amanti. Ah, quindi cioè alla fine faceva quello che... i soldi e per giunta si godeva la vita in tutti i modi. Mamma mia, poveraccio. Poi come è finita? Insomma, l'avranno arrestata questa pazza scatenata? Sì, penso, sì, adesso è una, per una, attendo una consulenza psichiatrica per sbatterla dentro. Beh, meno sì, male, insomma, pericolosetta come ti petto. Mi raccomando, scegliete bene la vostra donna, non si sa mai. Vi spazza in cantina. Sì, adesso andiamo nelle Americhe. Oh, bene. Colombia. Il contadino colombiano Luis Sanchez, molto religioso e credente, ha problemi sessuali con sua moglie. Quindi non è molto innamorato. Per non tradirla, ispirato anche dalle sacre scritture, decide di rinunciare a qualcosa. Bene. Che cosa? Che cosa? A qualcosa di estremamente prezioso. Vuol dire restare fedele alla sua consorte. Aia. Ah, tu lo faresti. Dipende che cosa. Arriviamoci e poi te lo dico. Lo ha fatto in linea con la cultura contadina. Per asportarsi i testicoli. Eccola. Ha usato una lametta. No. Una lametta da barba. Per la sutura è ricorso allo stesso ago e allo stesso filo col quale usava suturare le ferite degli animali. Mamma mia ragazzi, veramente i brividi. Ma voi ti immagini tu? Ai ai ai. Cioè, allora, con però, la lametta si è praticamente... ha aperto lo scroto da solo, senza anestesia, senza nulla. Si può fare. Follia, vabbè, Colombia, chissà cosa aveva fatto quello lì in Colombia, cosa coltivava in Colombia questo contadino. Vabbè. Andiamo in Olanda. Oh, beh, tanto per rimanere in tema. Una malata di sexomnia. Di? Sexomnia. Cos'è? Sexomnia. Sexomnia. Non so. Tipo insomnia. Un disturbo del sonno, molto simile al sonnambulismo. Ecco. Ma con una chiara impronta sessuale. Chi ne soffre può compiere atti sessuali senza rendersene conto e senza avere il minimo ricordo il giorno dopo. Porca, ma tu conosci qualcuno che fa queste cose? Ma capitarne una, magari, sì. Non dico una ogni sera, ma una ogni due tutti sere. Tutti alla ricerca di questa. Scusa, ma tu soffri di sexomnia? No, ah vabbè, ciao, me ne va. Quindi, allora, cosa è successo? Belle è una giovane olandese. Sta riuscendo a superare questa situazione per la quale non c'è rimedio sicuro. Al di là dell'autoerotismo cui si sottopone mentre dorme, Belle viene la sua con martello pneumatico anche sì, lei sì. No? Belle vive la sua vita praticamente dentro un incubo, condizioni che ha già fatto naufragare la relazione col suo compagno e non osa più dormire accanto a un altro uomo. Adesso questa ragazza è in una clinica dove si sta studiando ancora con scarsi risultati, perché ci sono pochi episodi di questa malattia. Scarsi risultati, secondo me i medici non vogliono curarla. Trovare una soluzione a questo problema. E agirano sempre sotto casa sua, chissà perché. Ma roba, Sexomnia si chiama. Sexomnia, ragazzi, ricordate. Ecco, bene. Vabbè. Parliamo di record, dai. Bene, bene, bene. I record sono sempre qualcosa di importante, perché mette l'uomo in sfida con se stesso. Certo, e con altri. E con altri. Questo è un record però in solitudine. Ovvero perché si fa da solo. Anche quest'anno ha partecipato al Masturbation. Ecco, lo sapevo. Cioè all'annuale gara di masturbazione, vincendo grazie a un'attività durata quasi 10 ore. Mamma si chiama... No, fai pure tu suoni strani. 10 ore? 10 sì, ore. Quasi sì, si chiama Masanobu. Masanobu Sato. Ed è un fabbricante di giocattoli sessuali giapponesi. Ah. Che già nel 2008 aveva partecipato alla gara, vincendo con una masturbazione di 9 ore e 33 minuti. Ma cioè una unica masturbazione di 9 ore, sì, o più consecutive? No, unica. 9 un ore. Orgasmo dopo donne, 9 ore. Trovate quest'uomo, perché insomma, 9 ore di sesso continuato. Insomma, sì, magari con la mano non è la stessa cosa di una donna, secondo me. Veramente, una roba da matti, cose strane. Okay. Dov'è? San Francisco. Sì, cioè a San Francisco, esatto. Poi adesso ci spostiamo in Inghilterra. Ah, bel viaggetto in Inghilterra. Sì, sì. Sappiamo che l'amore, il sesso fa rumore a volte, no? Certo, cioè, se ti è mai può capitato. Capitare. Quello certo. Di sotto che ti bussa col bastone. Tom, tom, tom, perché... Questo no, però vabbè, magari vabbè, a me non vorrei entrare troppo nei dettagli. Ho il vicino che bussa ripetutamente la... Comunque. Una donna americana, durante i rapporti sessuali, emette urla disumane e innaturali, come se la stessero uccidendo. Innumerevoli sono le lamentele dei vicini di casa e dei passanti, sicuramente. Ciò avviene a Londra, dove questa donna... Amore non fa rima con rumore. Certo. Almeno per Catherine, una focosa inglese 48enne, che è finita per aver ignorato un'ordinanza del suo paesino. Che le imponeva di smetterla di fare eccessivamente rumore durante i rapporti sessuali con il marito. Hai capito. Quindi, e cosa è successo? I suoi vicini a Washington, nel West Side, si erano lamentati molte volte con le autorità. A Washington, ma non eravamo a Londra? In Inghilterra? No, questo è un altro episodio. Ah, un altro episodio. Hai finta che non ti ho detto niente. Si erano lamentati molte volte con le autorità del fatto che il letto sbattesse rumorosamente contro il muro durante gli amplessi. Conditi con urla e gemiti ad alto volume. Oh, allegria! Nonostante il divieto che era stato imposto, la donna con suo marito ha continuato a disturbare il sonno dei dirimpettai con rumore di queste pratiche erotiche. Certo. Arrestata, finisce in cella. Amici, se dovete fare del rumore, andate in campagna in una villetta appartata, fate quello che vi pare. Effettivamente, poi certo, orario della notte, ma nel pomeriggio, nelle prime ore del pomeriggio, non lo so, di mattina tardi. Però sì, certo. come quando ci sono i muratori, no, che lavorano vicino a casa tua, che possono lavorare sera e mattina, ci sono degli orari in cui è possibile farlo. Quindi se proprio volete farlo, fatelo negli orari in cui non disturbate, no? Penso esatto. Che sia una cosa, magari, un accordo più che giusto. Contribuite magari ad eccitare qualche altro. Bene. Va bene Paolo, grazie delle tue notizie di questa settimana, appuntamento alla grazie prossima. Grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao ciao, buona continuazione. Ciao. Adesso noi continuiamo, perché adesso ci mettiamo in collegamento con Francesco Quartararo a Palermo per parlare, conoscere quelli che sono gli eventi più interessanti questo fine settimana a Palermo, ma non solo a Palermo, martelli pneumatici a parte, insomma scopriremo cosa ci riserva questa settimana Francesco con Rock Revolution Net. Rock Revolution Net. Sistema attivato. Connessione in corso. Elaborazione dati in progresso. Città di destinazione. Località selezionata, Palermo. point to point stabilito. Oh, collegamento stabilito con Francesco Quartararo. Francesco, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Oh, ciao. Sentiamo un bel movimento attorno a te. Dove ti trovi? Parecchio, parecchio movimento. Allora, c'è una notte bianca in corso che ha paralizzato metà del centro storico. Un'altra... Di Palermo? Sì, sì, ovviamente sempre di Palermo. Un'altra parte che è al Giardino Inglese, un'altra parte che è qui al Barcollo dove mi trovo io, dove abbiamo organizzato una piccola serata, insomma, giù sembra di essere all'inferno, quindi significa che sta andando abbastanza bene. Bene, bene, quindi siamo, condizioni climatiche favorevoli. Condizioni climatiche sì, favorevoli, ma comunque siamo al chiuso, c'è parecchio freddo, quindi al momento un luogo al chiuso, anche se siamo al 31 maggio, diciamo che è la cosa migliore. Quindi al Barcollo questa sera festa, cosa ci fa, cosa si farà? Cosa c'è di bello questa sera da allora, fare al Barcollo? In questo momento ci sono i Bass Ballet, si stanno esibendo, lui in parrucca bionda ha già scaldato l'ambiente e insomma c'è un certo seguito. A seguire ci sono i Stratofire e qui ti voglio presentare la cantante di Collateral Effect, che è estremamente timida e insomma... Gli poniamo, è un po' scattata, però non so perché. La scattata forse perché ancora non ha suonato, ma avrà modo di riparare. Si chiama? Si chiama, te lo dico. Mira, ciao, buonasera. Ciao. Senti, Francesco mi ha detto che sei un po' scazzata. Che succede? Con chi ce l'hai? No, con nessuno in particolare, ma si sa che le band vogliono subito suonare, quindi un po' si scossano ad aspettare. Ho capito. Diciamo che è questo. Ho capito, vabbè, ma poi quando la gente aspetta, no, l'attesa fa anche un certo effetto, no? Se c'è ancora gente sicuramente. Senti, cosa ci farete ascoltare? Cosa farete ascoltare? Noi purtroppo non saremo dei vostri, però virtualmente col cuore lo saremo. Cosa farete ascoltare al pubblico del Barcollo questa sera? Faremo 8 cover e un inedito. Oh, cover di chi? Cover mist, Nirvana, Jet, Yves e altri. Ah, bene, bene. Senti, va bene, è stato un piacere, in bocca al lupo per questa sera, speriamo che vi facciano suonare presto. Grazie, ciao. ciao. Francesco. Tanta gente di diversa età, sono scesi anche da Milano per seguire questa serata, insomma. C'è freddo, ma qui sotto si sta molto bene. Molto bene, bene, ci fa piacere questa cosa. Noi infatti abbiamo provato a chiamarti prima, ma tu eri incasinatissimo in questa bella serata. Sì, tra l'altro a partire da questa sera entra totalmente in funzione l'ordinanza comunale che dovrebbe in qualche modo regolamentare un po' la vita dei locali notturni. Abbiamo accennato a qualcosa nelle scorse settimane, sostanzialmente al momento alla mezzanotte qualsiasi cosa si faccia ai locali si stacca, tranne il venerdì e il sabato fino a l'una. Sarà tutto da vedere poi quando inizierà la vita dei lidi, certo, specialmente certo. Nelle zone balneari, penso soltanto alla discussione che c'è stata l'anno scorso a Mondello, ma vedremo, certo. Vedremo. Certo, ma finora onestamente più o meno insomma dalle nostre parti perlomeno non è cambiato un granché, perché anche qui insomma più o meno verso l'una bisogna staccare tutto e farla finita. Quindi perlomeno in provincia di Palermo non credo che ci siano grandi cambiamenti da questo punto di vista. Saremo a vedere in città cosa accadrà, perché ovviamente con l'estate la gente sta con più piacere fuori all'aperto piuttosto che in casa, quindi è anche bello poter gustare un po' di musica in spiaggia oltre l'una di notte, però staremo a vedere insomma. E saremo lì sempre a raccontarlo con voi e vi racconteremo anche come cambia pian piano la vita in città. Allora Francesco, Barcollo che si trova, diamo indicazioni. Barcollo via Miraglio Gravina numero 56. Questa sera siamo qui fino a l'una, sì, se vogliamo. Poi vi segnalo anche domani sera tante altre belle serate. Un evento molto particolare che ha a che fare con la festa della Repubblica, ma dedicato alle donne, al Parco Nini Cassarà domenica. Tutte queste cose trovate su FirioTate. Benissimo, quindi FirioTate, che tra l'altro potete raggiungere sia da Google che dal nostro banner su rockrevolution.it per conoscere gli eventi più interessanti di questo fine settimana. Francesco, ti ringraziamo, ti lasciamo a questo bellissimo evento, appuntamento alla prossima settimana. Ok, come sempre, buon rock a tutti. Buon rock, ciao Francesco, ciao. Adesso la musica in versione unplugged per Rock Revolution Unplugged, due grandi successi questa settimana, in Nirvana con Jesus Don't Want Me For A Zombie e un'altra bella canzone, una versione molto particolare, bonus track di Marilyn Manson. Jesus don't want me for a zombie. Something's I'm not made like me. round the reasons you have to die. Don't ever ask your love of me. Don't expect me to cry. Don't expect me to lie. Don't expect me to die far away. Jesus, don't want to throw something out late. Unplugged. This isn't my world. change names. Everyone around you has murdered someone, something sacred. Isn't one there without the unaired? Isn't a white cotton panties something stained red? It's better. Ho ascoltato Rock Revolution Unplugged, due canzoni in versione acustica, erano Nirvana con Jesus Don't Want Me For A Zombie, è un brano originariamente registrato dal gruppo musicale alternative rock scozzese The Vaselines, pensate un po', per il loro EP Dying For It del 1988. Si tratta di una parodia sull'inno dei bambini del I'll Be A Zombie, sarò un raggio di sole. Il brano è stato un successo solo nel genere indie pop fino a quando nel 92 i Vaselines hanno ripubblicato il brano con un lieve cambiamento di titolo con Jesus Don't Want Me For A Zombie, Gesù non mi vuole per un raggio di sole, sulla compilation The Way of the Vaselines e Complete History del 1992. Poi viene anche pubblicato nelle raccolte Old Stuff and More del 2003 e poi anche in Enter the Vaselines del 2009. In Nirvana nel 1994 includono una cover di Jesus Don't Want Me For A Zombie sul loro album acustico MTV Unplugged di New York che abbiamo appena ascoltato. Poi abbiamo ascoltato Marilyn Manson con Into the Fire, una versione alternativa bonus track del suo ultimo album, davvero molto molto tosto. Adesso andiamo indietro nel tempo per la rubrica dedicata agli Evergreen di Rock Revolution con I Love Rock and Roll. Rock and Roll with Rock Revolution. the past with the Rock Revolution. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my wind, but what a thrill. Goodness, you're wrecking shit, quitting balls of fire. I let the love all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, looking fine. Goodness, the greatest is quitting balls of fire. Like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I took my nails and I put them on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is greatest, just quit me balls of fire. You're fine, so kind. I got to tell this world that you're mine, mine, mine. I treat my nails and I play with my fire. I'm real nervous cause the show is fun. Come on, baby, time to crazy. Goodness gracious, just quit balls of fire. I love rock and roll, grandi classici della musica rock su CRMP Radio. E anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione. Cari amici, appuntamento al prossimo venerdì. Vi ricordo ovviamente la replica della domenica sera dalle 22 alle 22, 23, 24, a mezzanotte su CRMP Radio con Rock Revolution, oppure su internet potete scaricare o ascoltare il podcast quando vi fa più comodo, insomma. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringrazio Simone, ringrazio Ida Parlavecchio, il nostro amico Pablo, tutti gli amici insomma che hanno collaborato con noi e ovviamente voi ascoltatori che ci avete seguito fino a quest'ora. Appuntamento quindi la prossima settimana. Se volete, durante insomma questa attesa, potete visitare il nostro sito rockrevolution.it per farvi un'idea di quello che ci sarà la prossima settimana. Bye bye, alla prossima! Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Radio.